Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lavori sulla H4, non c'è l'accordo con governo e autostrade slovene sui percorsi alternativi per i tir che non soffocherebbero l'autoporto di Gorizia. Nuovo tavolo mercoledì. Piano oncologico, i primari di Pordenone tendono le mani alla giunta regionale. Fedriga ci ha ascoltati, rientrano le critiche. Scoppia una bombola di ossigeno a bordo di un cargo ormeggiato a Monfalcone, 2 feriti, 1 grave. Monossido di carbonio, la strage evitata grazie al dispositivo che ha rilevato il gas. A Trieste le testimonianze sull'episodio di via Torre Bianca. Caso Resinovic, un nuovo rinvio nella consegna della perizia da parte dei super esperti guidati da Cristina Cattaneo, nuova scadenza metà febbraio. Pordenone, 2 sportelli per assistere ai genitori nelle iscrizioni digitali dei figli a scuola. Dall'ex premier francese al cantore del vitigno autoctono, dallo scrittore editore tedesco alla regina senegalese della danza, i vincitori del premio Nonino 2025. Spettacoli, a Udine arriva Elio e canta la Milano degli anni 60. Al Bobbio di Trieste, Lodo Guenzi e Sara Putignano in Molto rumore per nulla, intervista all'attrice. Lutto nel calcio, addio a Fabio Cudicini, il portiere cresciuto nell'Udinese che vinse tutto con il Milan di Rocco. Triestino aveva 89 anni. Biathlon, una stagione senza gare per Lisa Vittozzi. La Sappadina tornerà all'inizio della prossima per puntare all'oro olimpico. Giovedì 9 gennaio, sono le 7 e quasi 20 minuti. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Abbiamo cielo coperto con piogge deboli su tutto il Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 6. A Trieste 11 gradi e mezzo, a Gorizia 9. A Udine 8 gradi e 5 decimi, 7 gradi a Pordenone. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 3 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 4 e 5, a Sappada 0, sul Piancavallo 4 gradi positivi, a Forni di Sopra 2, sul Lussari 1 grado positivo, sullo Zoncolan 0 e tornando sulla costa a Grado 9 e 5 decimi, a Lignano 8 gradi e mezzo. Queste le previsioni per oggi. Cielo in prevalenza coperto con piogge moderate sulla costa, in genere abbondanti sul resto della regione, anche intense sulle prealpi giulie. Quota neve a 1600-1800 metri sulla fascia prealpina, 1400-1600 sulle Alpi. Dal pomeriggio cesseranno le precipitazioni ad ovest, mentre saranno residue sparse sul settore orientale. Sulla costa in quota, sulla zona montana, soffierà vento da moderato a sostenuto da sud o sud-ovest. In serata saranno possibili foschie o nebbie, specie sulla pianura. Non è ancora stato trovato un accordo tra le autorità regionali e responsabili delle autostrade slovene e del governo sloveno che si sono incontrati ieri per trovare una soluzione alle ripercussioni sulle attività e il traffico al di qua del confine che saranno provocati dai lavori sulla H4, l'autostrada alle spalle di Gorizia. Un nuovo tavolo è previsto mercoledì, ma cresce la preoccupazione delle categorie economiche. La chiusura della Discordia, spostata finché si poteva, ma ora inevitabile. Da febbraio, per urgenti lavori di manutenzione al viadotto autostradale dell'H4 slovena tra Razdrto e Vipavski Križ, per ben 18 mesi il tratto che dalla biforcazione dell'autostrada da e per Lubiana conduce verso Gorizia rimarrà fuori servizio. In prefettura Trieste si è tenuto un vertice che ha coinvolto i 2 prefetti di Trieste e Gorizia, la regione, i ministeri dei trasporti italiano e sloveno, il gestore autostradale, ma anche le parti economiche, visto che il diniego da parte delle autorità di Lubiana a far transitare almeno parte del trasporto pesante sulla viabilità regionale alternativa costerà conseguenze all'autoporto di Gorizia, che per un anno e mezzo sarebbe tagliato fuori. Lo scalo, assieme alla regione e agli autotrasportatori, aveva proposto di lasciar passare sulle strade regionali slovene dai 3-500 tir al giorno fino ad Ajdussina, ricevendo però un no. È previsto comunque un nuovo tentativo in un secondo vertice la prossima settimana. Preoccupazione anche per il traffico in entrata a Fernetti, soprattutto per quello che riguarda i mezzi pesanti, tra i 3.500 e i 4.500 autotreni al giorno in più, peraltro con l'accordo di Schengen sospeso, rischiano di creare un imbuto. 2 le soluzioni per non intasare l'autoporto triestino e il tratto tra l'Isert e Palmanova, la prenotazione obbligatoria online per sostare nell'infrastruttura alla frontiera e poi un numero di accessi orari dei tir contingentato, creando code sia al confine ma limitando i disagi per il traffico ordinario. E per i turisti che usavano soprattutto l'estate l'H4 per evitare l'Isert, cosa cambierà? Il bypass per Gorizia dovrebbe continuare a funzionare, a patto che la viabilità regionale slovena secondaria regga nei weekend di luglio un traffico così intenso. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi della sanità si smussano, i contrasti sul piano oncologico regionale e dopo l'incontro del vicepresidente della regione Riccardi al CRO, anche quello di ieri a Trieste del presidente Fedriga con 37 primari dell'ospedale di Pordenone ha visto rientrare le critiche che erano state avanzate nei giorni scorsi con una lettera indirizzata ai vertici della giunta e alla commissione consiliare che si occupa di salute. Siamo stati ascoltati, dicono i primari, e ora contiamo di poter partecipare ai confronti tecnici sulle varie parti del piano. Anche la direzione in comune fra ASFO e il CRO ci soddisfa, spiegano i primari del Santa Maria degli Angeli. Esame il primo superato, quello del piano oncologico regionale. Da una parte il presidente Fedriga, dall'altra i 37 responsabili di struttura della sanità pordenonese che avevano espresso contrarietà con una lettera. Per entrambe le parti un confronto costruttivo, lo dice il presidente della regione e lo confermano i medici che apprezzano la scelta di Tonutti, nominato direttore a scavalco di ASFO e CRO di Aviano, utile per fare sinergia, dicono. I responsabili di struttura ASFO condividono il piano nel metodo, aspettando di poter discutere di questioni tecniche. Paolo Ubiali, ASFO. Le nostre preoccupazioni erano legate a vari argomenti, a vari temi, soprattutto nel mio caso ai temi chirurgici. Sono state recepite ed ascoltate. Il risultato penso che lo vedremo nei prossimi mesi con i tavoli tecnici che sono stati promessi. Fedriga in una nota spiega che è stata ribadita la necessità di evitare strumentalizzazioni e di lasciare fuori la politica da scelte che possono essere assunte solo dai professionisti, a garanzia della salute dei cittadini. Tutti gli approfondimenti e le scelte verranno compiuti a seguito dell'approvazione del documento attraverso i tavoli tecnici previsti, nei quali saranno protagonisti i professionisti, ha aggiunto il presidente della regione. Siamo consapevoli, ha affermato Fedriga, che il documento relativo alla rete oncologica sarà adottato nei prossimi anni e i risultati saranno tangibili nella prossima legislatura, ma la nostra responsabilità è quella di prendere quelle decisioni strategiche che non sono state prese negli ultimi 3 decenni, causando un ritardo del sistema sanitario regionale in questo specifico ambito, ha concluso. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora sanità, un presidio contro le prospettive di un nuovo contratto nazionale insoddisfacente ormai prossimo alla firma, le aggressioni al personale sanitario e le gravi carenze di organico è stato organizzato per questa mattina a Udine dalla UIL. Si svolgerà dalle 9.30 alle 11 di fronte all'ingresso principale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia presso la palazzina che ospita le sedi delle organizzazioni sindacali. Un grave incidente ieri pomeriggio a Monfalcone, dove una bombola di ossigeno è esplosa a bordo di un cargo all'ormeggio a Porto Rosega per sbarcare rottami di ferro. 2 i feriti, uno di essi, un 66enne croato ispettore dell'armatore, è stato raggiunto da una fiammata che gli ha provocato ustioni di secondo e terzo grado al volto e al collo. È stato stabilizzato dal rianimatore, arrivato con l'elisoccorso ed è stato portato con l'elicottero all'ospedale di Udine, dove è ricoverato in prognosi riservata. Meno grave, un marittimo ricoverato al San Polo. La nave è la Marvelous, batte bandiera delle isole Marshall ed era arrivata a Monfalcone il giorno dell'Epifania, proveniente dal porto di Newark negli Stati Uniti. Ora torniamo sul caso di intossicazione da monossido di carbonio avvenuto a Trieste l'altra sera, il terzo in regione nel giro di 2 sole settimane. Questa volta per fortuna non ci sono state vittime grazie all'allarme che è stato lanciato dal rilevatore posizionato in un bed and breakfast dello stabile coinvolto, uno strumento importante da poco diventato obbligatorio per le strutture ricettive. Ho preso paura perché al momento sei a 00:30, a venire chiamati dalla polizia, sì, non è leggerissimo. Si è precipitata nel cuore della notte nel suo negozio Alessandra Falciano, al piano terra dello stabile di via Torre Bianca, in centro a Trieste, dove era scattato l'allarme per la presenza di monossido di carbonio, gas potenzialmente letale, inalato inconsapevolmente dai condomini dello stabile che sono stati fatti evacuare. 8 persone tenute in osservazione per un principio di intossicazione e sotto ossigeno. L'origine della fuga del gas è ancora ignota, le indagini in corso. A far scattare l'allarme e quindi l'intervento dei soccorsi, il rilevatore di monossido presente nell'appartamento vacanze del primo piano non aveva ospiti, proprio perché un'altra fuga di monossido era stata registrata in quella stessa palazzina già prima di Natale e l'appartamento era stato tenuto vuoto per sicurezza. Il rilevatore, collegato da remoto al cellulare del proprietario, ha permesso di registrare la presenza del gas killer. Il proprietario, residente in Belgio, ha subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti con tempestività. Il gas è inodore, incolore, ma tossico. Alberto Peratone, responsabile del 118. Le conseguenze possono essere molto gravi e sono di solito l'insorgenza di uno stato di coma, arresto cardiaco e se la persona sopravvive può avere importanti complicanze neurologiche. Da Natale in regione due persone hanno perso la vita a causa del monossido di carbonio, una donna a Forni di Sopra, un austriaco a Trieste. Alberto Maiolo, comandante dei Vigili del Fuoco. Basterebbe poter dotare tutti i locali e gli ambienti dove sono installati degli apparecchi a gas di rilevatori di gas di monossido di carbonio. Fatti di cronaca come questi spesso sono poi da stimolo per evitare nuove tragedie adottando buone pratiche. L'importanza di avere un rilevatore, ci sta pensando? Ci abbiamo già pensato, abbiamo già cercato tutto, per il negozio e anche per casa a questo punto. La prima cosa che ha fatto stamattina, comprarne uno. Già stanotte, sì. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Slitta di un altro mese la data ultima per il deposito della consulenza medico-legale sulla morte di Liliana Resinovic, trovata morta a gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. L'antropologa forense Cristina Cattaneo ha infatti ottenuto dalla Procura di Trieste un'ulteriore proroga di 30 giorni, dopo quelle che erano già state accordate in precedenza. In prima battuta, infatti, la data per la consegna del rapporto era stata stabilita per il 15 dicembre e poi rinviata al 15 gennaio. A seguito di questa ulteriore proroga, la consegna potrebbe quindi avvenire all'attorno alla metà di febbraio. Il report sarà firmato anche dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall'entomologo Stefano Vanin, che fanno parte del collegio peritale incaricato dal sostituto procuratore di Trieste, Maddalena Chergia, di stendere la nuova relazione medico-legale. A Pordenone un presunto spacciatore è stato denunciato dai finanzieri del comando provinciale che sulla macchina dell'uomo hanno trovato 10 grammi di cocaina in un portasorprese degli ovetti di cioccolata e circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, perquisendo l'appartamento in cui si era stabilito l'uomo in provincia di Treviso, i militari hanno rinvenuto poco meno di 20.000 euro in contanti tra i pannolini della nipote in un cesto del bagno. Il presunto spacciatore è un albanese senza permesso di soggiorno e anche di questo dovrà rispondere. Collegare i sistemi di videosorveglianza con le sale operative delle forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa video allarme antirapina siglato a Udine dal prefetto, dai presidenti provinciali di Confcommercio e Confesercenti e dai rappresentanti delle forze dell'ordine. Il protocollo prevede l'attivazione dei tavoli tecnici con la questura e con il comando provinciale dei carabinieri per collegare i sistemi di video allarme e le centrali operative delle forze di polizia. Ciò consentirà un rapido intervento delle forze dell'ordine e l'acquisizione delle immagini per svolgere indagini e individuare i responsabili di furti e intrusioni. Il progetto della cabinovia fra Trieste e il Carso, dopo la sentenza del TAR che ha imposto il riavvio dell'iter per il rilascio delle concessioni, le associazioni contrarie all'opera tornano alla carica e in un incontro che si è svolto ieri hanno lanciato l'idea di indire un nuovo referendum. Il progetto della cabinovia di Trieste, presentato nel 2022, è ancora in piedi? L'aggiudicazione della gara è tuttora valida e il progetto di fattibilità dovrà essere ripresentato? A chiederselo e a chiederlo a Regione e Comune è il Comitato Novo Via, riunitosi in assemblea pubblica a Trieste nella sede della Sostampa regionale con l'obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti della recente sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia con cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso delle associazioni, imponendo alla Regione di rifare le procedure di rilascio delle concessioni a favore del Comune. Il nodo della questione era la mancanza negli atti della variante urbanistica che deve includere l'effettiva localizzazione dell'impianto, ma la variante sarà approvata entro un mese, assicurano gli uffici tecnici del Comune di Trieste, e ora sarebbero in possesso di tutti gli elementi per l'adozione definitiva della stessa. Restano dunque validi sia il progetto di fattibilità che l'aggiudicazione della gara e il contratto d'appalto, continuano fonti comunali che danno la prossima realizzazione della cabinovia come cosa certa. Da parte loro i Novo Via hanno già ventilato l'ipotesi di tornare a chiedere nuovamente un referendum sull'opera. Insomma, la battaglia tra mare e carso continua. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Udine celebrerà il Giorno della Memoria con un articolato calendario di eventi dedicati alla riflessione sulla Shoah e alla memoria storica e con la posa di nuove pietre d'inciampo, simboli tangibili contro l'oblio e il negazionismo, come ha detto l'assessore alla cultura Federico Pirone, illustrando il calendario. Mostre, incontri, spettacoli e concerti animeranno la città fino alla fine di febbraio, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà culturali. Tra gli appuntamenti principali, la mostra sulle pietre d'inciampo a Palazzo Morpurgo, inaugurazione il 18 gennaio, Lo spettacolo La pace è ancora un sogno al Teatro San Giorgio il 1 febbraio e il concerto della FVG Orchestra al Teatro Nuovo il 27 gennaio. Uno dei paradossi dei nostri tempi è che anche chi è digiuno di computer deve imparare a usare speed, form e procedure online per iscrivere a scuola i figli nativi digitali. A Pordenone due sportelli aiutano in questa pratica le famiglie meno esperte. Un aiuto digitale per affiancare le famiglie nelle procedure online per le iscrizioni di ragazze e ragazzi al prossimo anno scolastico è uno dei servizi offerti in questi giorni ai punti digitale facile di Pordenone, spazi di facilitazione all'uso delle nuove tecnologie, progetto del Comune di Pordenone in collaborazione con la cooperativa FAI e l'Opera Sacra Famiglia, finanziato dalla Regione con risorse PNRR. Gli sportelli sono due, uno all'interno dell'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pordenone in piazzetta Calderari e l'altro all'Hub 381 in Viale Dante. In questo periodo sono in programma due incontri di gruppo serali dedicati proprio alle iscrizioni scolastiche il 10 e il 29 gennaio, ma è anche possibile prenotare un appuntamento personalizzato. Il servizio è gratuito e aperto a tutte le età, si è affiancati da operatrici sociosanitarie appositamente formate e l'assistenza è offerta tutto l'anno anche per altre esigenze come SPID, carta d'identità elettronica, pago PA. Entro la fine del 2025 il Comune di Pordenone punta ad aiutare 1700 cittadine e cittadini a migliorare le competenze digitali. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine è attivo il nuovo servizio di bike sharing. Sono state dislocate le prime biciclette, poco meno di un centinaio, sulle 380 complessive che completeranno la flotta nel corso delle prossime settimane su tutto il territorio comunale. Per la partenza del servizio è stata pensata una speciale promozione. Inserendo all'interno dell'app Ride Movi il codice Udine25, le prime due corse da 15 minuti ciascuna saranno in omaggio sia sulle biciclette elettriche che su quelle tradizionali. Esaurito questo coupon, si applicheranno le regolari tariffe. Per gli utenti Udine Bike è riservato per tutto il primo anno uno sconto del 20% sulle tariffe in abbonamento. Siamo alla pagina della cultura. L'ex primo ministro francese Dominique de Villepin, lo scrittore ed editore tedesco Michael Krüger, la regina della danza Germaine Acogny e il critico enologico Ben Little sono i vincitori dei premi Nonino 2025. La consegna a Percoto il 25 gennaio. Una storia lunga 50 anni, fatta di cultura, a partire da quella materiale, quella dei sapori e della produzione artigiana. L'edizione 2025 del premio, che ogni anno richiama a Ronchi di Percoto i grandi nomi dell'arte e della cultura internazionale, è dedicata a Benito Nonino, che con la moglie Giannola ha rivoluzionato il mondo della grappa con la creazione della Monovitigno oltre mezzo secolo fa. E quest'anno il premio del Risite d'Aur, la Barbatella d'Oro, va ad un altro prodotto unico del nostro territorio, il Pignolo, un vino che si trova solo qui, documentato fin dal 1300 ma che è stato riscoperto solo nel nuovo millennio e che ha trovato il suo appassionato cantore in Ben Little, irlandese di Dublino trapiantato in Friuli, scrittore, blogger, sommelier e poeta che al Pignolo ha dedicato un libro che si chiama Cultivating the Invisible, coltivare l'invisibile. Il premio internazionale Nonino va invece a Michael Krüger, scrittore tedesco per anni anima della Hanser, una delle più prestigiose case editrici di Germania. Premio Nonino 2025 è Dominique de Villepin, una delle figure più influenti della politica internazionale e primo ministro di Francia tra 2005 e 2007. Come maestra del nostro tempo, quest'anno è stata scelta Germaine Acogny, artista senegalese e francese che è considerata la madre della moderna danza africana. La consegna dei premi, come di consueto, l'ultimo sabato di gennaio, in quello che è uno degli eventi chiave del calendario culturale in Friuli, e l'evento, anche questa sta diventando una tradizione, si apre a tutta la cittadinanza con i dialoghi del premio Nonino, in programma sempre il 25 gennaio nel pomeriggio al Castello di Udine. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre volumi dedicati a Gorizia, usciti di recente, saranno presentati oggi pomeriggio nell'ambito della rassegna Novecento Inedito, alla presenza degli autori. Si tratta di Gorizia e Nova Gorizia, due città in una, di Andrea Bellavite, Storia di una linea bianca di Alessandro Cattunar e di Capire il confine di Giustina Selvelli, alle 17.30 a Gorizia, al Culturni Dom. A Trieste alle 18 la libreria Lovat, Jacopo De Michelis presenterà il suo ultimo giallo, La montagna nel lago, edito da Giunti. È sempre alle 18 a Trieste, al Bar Caffè Knolp, l'artista visivo e poeta Enzo Comin presenterà il suo ultimo libro, Armonia delle Resistenze, alle 18. Nel Kurdistan iracheno prosegue la campagna di scavi archeologici dell'Università di Udine e una serie di recenti ritrovamenti consente di gettare nuova luce sulla trasformazione che avvenne tra i 6 e i 9 mila anni fa in Mesopotamia, da area essenzialmente agricola a zona di importanti centri urbani. Due scoperte degli archeologi dell'Università di Udine nel Kurdistan iracheno aiuteranno a studiare il passaggio da un tipo di società agricola, rurale ed egalitaria ad una di tipo urbano come le conosciamo oggi. Una trasformazione avvenuta in Mesopotamia molto prima che in Friuli, tra il 7 e il 4 millennio a.C., e che ha portato scambi commerciali, specializzazione nell'artigianato e le conseguenti gerarchie sociali. Il progetto archeologico, coordinato dal professor Marco Iamoni, si è concentrato su due siti distanti pochi chilometri l'uno dall'altro. A Kanispan, rinvenute le prime forme di produzione ceramica abbinata alla lavorazione di cereali. Nel vicino sito di Asingeran, identificato proprio dall'Università di Udine nel 2013, sono stati trovati due grandi edifici di 6-7 mila anni fa appartenenti alle élite del tempo. A ridosso degli edifici una necropoli per neonati, forse non sopravvissuti al parto. Si sta lavorando sulla ricostruzione del genoma antico, ma il ritrovamento è già sinonimo di una popolazione che inizia a considerare anche i bambini come figure chiave della società. La campagna di scavi fa capo al Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Ateneo Udinese, alla Direzione delle Antichità di Douk e al sostegno delle istituzioni italiane. Il lavoro proseguirà con l'analisi, assieme ad altre università, dei resti ceramici, paleobotanici e del DNA trovati nei due siti. L'importanza del progetto, sottolinea il professor Iamoni, sta nello studiare trasformazioni che riguardano tutto il genere umano, per capire non solo come siano nate intere civiltà, ma anche come siano crollate, e in quest'ottica insegnarci come affrontare le difficoltà dei giorni nostri, a partire da quelle ambientali e climatiche. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli torna questa sera a Udine. Elio, leader e cantante degli Elio e le Storie Tese, per l'unica data in regione del suo nuovo spettacolo, che si intitola Quando un musicista ride, in cui con una band di giovanissimi virtuosi esplora e reinventa il repertorio tra cabaret e musica della Milano degli anni 60, da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Iannacci a Cocchi e Renato. L'appuntamento è al Teatro Nuovo alle 21. Torna in scena da oggi a domenica al Teatro La Contrada di Trieste, sipario alle 20.30, un grande classico del teatro shakespeariano. Molto rumore per nulla, in una versione diretta da Veronica Cruciani con le musiche di Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, che è anche uno dei protagonisti della pièce nel ruolo di Benedetto. A interpretare l'altra protagonista, Beatrice, è invece Sara Putignano, che così ci presenta lo spettacolo. È una versione di Molto rumore per nulla, molto calata all'interno della nostra epoca contemporanea, ed è anche, ha come caratteristica quella di avere delle musiche originali, anche scritte appunto da Lodo Guenzi e Niccolò Carnesi, che rappresentano un pochettino l'anima di tutta la storia, di tutte queste musiche che guidano. È appunto una storia che ha, diciamo, in sé questi temi universali che fanno sì che l'opera shakespeariana, nonostante il passare di tantissimi anni, viva ancora in maniera molto forte, e soprattutto riguardante due temi principali, che sono quelli del linguaggio. Infatti uno dei protagonisti di questa storia è proprio il linguaggio. Vediamo come la parola smaschera i sentimenti, ma anche crea e distrugge delle vite, anche in qualche modo è la causa di, diciamo, della rovina anche a un certo punto della reputazione di Ero, che è la cugina di Beatrice. Ma c'è anche, come dire, il tema del rapporto uomo-donna, di come queste due figure all'interno della società sono viste e trattate in modo molto differente. Sono comunque dei temi ancora molto attuali, e quindi poi c'è tutta, come dire, una compagnia di attori straordinari che riescono a portare in una prima parte con grandissimo divertimento, leggerezza e ironia la storia shakespeariana, che è fatta anche poi soprattutto di amore, perché poi alla fine di grandi storie d'amore poi si tratta, per poi avere un risvolto un pochino drammatico successivamente a tutta una serie di eventi, ecco. Il 2025 del circuito ERT si apre questa sera a Gemona con il brillante spettacolo dei fratelli Mathias e Julien Cadez, artisti che uniscono musica, recitazione e magia. Lo spettacolo si intitola Le Virtuose ed è un recital esplosivo dove due personaggi esilaranti si sfidano in una gara di ingegno e virtuosismo pianistico mescolando elementi della musica classica, della magia e della commedia. L'appuntamento è alle 20.45 a Gemona al Teatro Sociale, la replica domani sera a Sacile al Teatro Zancanaro. Nella pagina dello sport, un lutto nel calcio, la morte a Roma di Fabio Cudicini, uno dei grandi portieri degli anni fra i 60 e i 70. Era nato a Trieste 89 anni fa ed era cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, che l'aveva fatto esordire in prima squadra e con la quale aveva conquistato una promozione in Serie A nel 1956. Poi era passato alla Roma e infine al Milan, dove l'aveva voluto Nereo Rocco. E in rossonero Cudicini aveva vinto praticamente tutto fra il 1967 e il 72. Scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Erano gli anni del Ragno Nero, soprannome coniato dalla stampa inglese. Nessun portiere all'epoca indossava maglie sgargianti, ma lui, oltre al completo nero, aveva uno stile essenziale e lunghe leve che parevano davvero attrarre i tiri degli attaccanti. Parava i rigori e a San Siro stabilì un primato di imbattibilità che resiste ancora. Sotto solo la porta della nazionale rimase praticamente chiusa per lui. Davanti, infatti, aveva Albertosi e Zoff. Ora gli sport invernali, biathlon avrebbe dovuto saltare solo le prime gare di Coppa del Mondo, invece Elisa Vittozzi ha deciso che resterà lontana dalle competizioni per tutta la stagione, si curerà al meglio e tornerà per dare l'assalto all'oro olimpico di Milano Cortina. Un pieno recupero fisico, agonistico e mentale in vista delle prossime Olimpiadi è l'obiettivo di Elisa Vittozzi, la biatleta dei Carabinieri, che ha deciso così di non iniziare nemmeno la stagione, colpa di un problema alla schiena accusato all'inizio dell'autunno. Nel comunicato della Federazione Italiana Sport Invernali si legge che la detentrice della Coppa del Mondo si è dedicata alla cura dell'infortunio fino ad un paio di settimane fa, risolvendolo positivamente. Le successive sensazioni percepite alla ripresa degli allenamenti hanno però convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero in vista della prossima stagione olimpica, alla quale Vittozzi punta di arrivare pienamente competitiva, scrive la nota. Nei giorni passati erano arrivate invece notizie incoraggianti in merito al ritorno della Vittozzi direttamente dal direttore tecnico Elrig, che parlava di un pieno ritorno alle gare dalla prossima tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding per poi avvicinarsi ai campionati del mondo. Ma alla fine la Sappadina ha spiegato che il problema, accusato in un momento delicato della preparazione, l'ha costretta a fermarsi e quando ha ricominciato ad allenarsi con maggiore intensità il suo fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Da qui la decisione di non forzare il rientro per evitare i rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando l'obiettivo a Milano Cortina 2026, la medaglia che manca alla Vittozzi, che dopo le difficoltà evidenziate nel passato al poligono aveva conquistato proprio nella passata stagione, tra le tante medaglie, anche un oro individuale ai mondiali. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.46 e 30 secondi iniziamo la nostra rassegna stampa dal Messaggero Veneto di Udine, che sotto una fotonotizia sul rilascio e il ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala titola sul clima: l'anno più caldo nel 2024 in regione, la temperatura media dell'aria mai così alta. Picco per il mare. Il report dell'ARPA documenta che il riscaldamento globale rappresenta sempre più un problema anche a nord-est. Due richiami sono per il blackout sul sito di Insiel per 28 ore, niente ricette o impegnative, e per le nuove regole in vigore da oggi sui bonifici bancari istantanei, stop ai costi extra. In cronaca, a Udine è partito il bike sharing con nuove aree di riconsegna e poi la vicenda delle salme esumate senza avviso, il comune corre ai ripari. Un titolo di sport è dedicato a Elisa Vittozzi che salterà la stagione, mentre per la cultura l'appello per la pace e verità dal premio Nonino che ieri ha indicato i vincitori di quest'anno. L'edizione di Pordenone apre invece del Messaggero Veneto apre invece sul vertice sul piano oncologico. La regione apre ai primari, appello di Fedriga, non si strumentalizzi sulla salute. I professionisti, c'è stato ascolto. Altri due richiami in prima pagina sono per il caffè, colazione più cara, la tazzina arriva a 1,40 euro, e per il museo di tattile di Palazzo Altan a San Vito, l'arte diventa più accessibile. Anche sul Piccolo, apertura dedicata al consuntivo climatico di un anno definito da record. Poi tra i temi locali che trovano spazio in prima pagina sull'edizione di Trieste c'è la questione Porto Vecchio con la sospensione dell'asta per Palazzo Vucetic. Lo ha deciso la regione, scrive il quotidiano, dopo la proposta giunta da una società che si offre di svolgere i lavori nello scalo e ottenere in cambio alcuni edifici pubblici in città. C'è poi il caso Procura, afflitta da pesanti carenze di organico. Pochi i PM e gli impiegati. Nella cronaca cittadina anche il punto sul tram. Pronta la seconda carrozza, tra una settimana collaudo e patenti, si rafforza l'ipotesi del via il 1 febbraio. E nello sport un ampio servizio sulla scomparsa del ragno nero, Fabio Cudicini. Sull'edizione di Gorizia e Monfalcone la situazione di Go 2025. Alla data di avvio sarà pronto l'80% delle opere, scrive il Piccolo. Tra quelle in anticipo sui tempi, Pala Bigot ed ex mercato all'ingrosso. Infine le terme romane di Monfalcone, l'attesa per la riapertura sta per finire, alla struttura si attende un sanificatore che contrasterà le concentrazioni di batteri superiori ai limiti evidenziate dalle ultime analisi. Tagliamento, il nodo dei compensi, è il titolo del dorso di Udine del Gazzettino. Il tema è quello della difesa del territorio dalle piene del fiume. I comuni procedono con l'individuazione dei professionisti che parteciperanno al piano, ma la nomina spetta la regione. Una dozzina di sindaci ha scritto a Scocimarro chiedendo chiarimenti su chi dovrà pagare il conto. Si parla poi dell'auto in trappola nel guado del Malina. Il sindaco di Premariacco minaccia di chiudere la strada. E poi un'altra vicenda che riguarda i pendolari che vivono in montagna. Ponte tra Maniago e Frisanco, vietato ai pullman, gli studenti lasciati a terra. Un richiamo è per l'incontro tra Federica e i primari e un altro per il protocollo antirapina firmato a Udine. I video dei negozianti subito disponibili agli investigatori. Sul dorso di Pordenone del Gazzettino il titolo principale resta lo stesso, cambia il centropagina dedicato alla cronaca. Proventi della coca tra i pannolini usati scaricati nel bidone, la finanza sequestra 20.000 euro a un 35enne. Due articoli sono poi dedicati alla viabilità. Via Udine si arrende allo slalom tra le buche, mentre sono stati stanziati 6 milioni per rimettere a nuovo le strade della regione su cui passerà il Giro d'Italia. I lavori inizieranno non appena ci sarà l'ufficialità delle tappe. Questa edizione è stata redatta e condotta da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Mauro Coloni, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Questa mattina non andranno in onda i programmi regionali né l'edizione del GR regionale delle 12.30 per la concomitanza con la conferenza stampa annuale della Presidente del Consiglio che comincerà alle 11, la seguirà in diretta il GR1. La prossima edizione del GR del Friuli Venezia Giulia sarà trasmessa dunque alle 15. Ora sono le 7.51, vi lasciamo all'onda verde regionale, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.